Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, ma siamo anche sul web, tramite dove potete ascoltarci, tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it e dal 2026, dall'inizio del 2026 ufficialmente, anche tramite il DAB in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Lombardia e in tutta la Toscana. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che inizia ogni mercoledì alle 10.30 all'incirca e che si prefigge di farvi ascoltare un paio di ore di musica registrata dal vivo, musica ufficiale e che tratta tutte le epoche e quasi tutti i generi. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e oggi abbiamo un'altra novità molto interessante, anche se è una cosa, un reperto oserei dire archeologico. È il nuovo album di una band che è nata nel 1971, nel 1984 si è sciolta, ma si è riformata nel 1991 ed è tuttora attiva, anche se parzialmente, diciamo così. La seconda parte però ha visto solamente Andrew Latimer, il chitarrista e cantante e flautista della membro originale della band, che si chiama Camel. Attorno a Andrew Latimer nel corso degli anni sono circolati decine e decine e decine di musicisti, fra cui mi preme citare il grande Bill Collins, sassofonista famoso anche soprattutto per i King Crimson, che è stato per 3 anni membro effettivo della band. Hanno fatto molti album live e l'ultimo, questo è un altro live che è doppio, si chiama Earth Rise e è stato registrato, come dicevo, tantissimi anni fa, il 30 ottobre del 1974, ho detto 74. C'è ancora la band originale, vale a dire, oltre a Latimer che vi ho già detto, Pete Barnes alle tastiere, Doug Ferguson al basso e Andy Ward alla batteria. È uno delle band progressive più in senso assoluto, anche se non ha mai avuto il riscontro di successo che possono avere avuto gli Yes, i Genesis o i King Crimson stessi. Comunque adesso ce ne andiamo ad ascoltare, perché il tempo stringe, ci sono tantissime cose che vi voglio far ascoltare. Il brano che ho scelto per primo è quello che dà il titolo all'album, si chiama Earth Rise, loro sono Camel. Thank you. Brano strumentale per questi Camel, come del resto molti altri nel loro catalogo, anche perché a cantanti non è che fossero messi tantissimo bene. Comunque si chiama Earthrise, la title track del nuovo album, nuovo virgolette, anzi fra tante virgolette, perché in realtà è stato registrato al Marquis di Londra il 30 di ottobre del 1974. E il tutto, come dicevo, è stato registrato dal Marquis, che sarà protagonista in questa prima parte della trasmissione. Infatti il Marquis è un locale storico di Londra, un locale che nel quale hanno suonato praticamente tutte le band maggiori britanniche, molte anche americane, soprattutto vista la capienza ridotta all'inizio della loro carriera. Il primo locale fu aperto nel 1958 in Oxford Street da un signore che si chiama Harold Pendleton, o meglio si chiamava, che era un fan del jazz, e aprì questo locale appunto per far suonare i propri beniamini e i propri amici jazzisti. Poi nel 1964 si trasferì in Wardour Street a Soho, che è stato per molto tempo la sede appunto del Marquis, e la sede principale, quella più conosciuta, e quella che anche personalmente ho visitato diverse volte. Poi nel 1988 è stata di nuovo trasferito e in Charing Cross Road, alla fine praticamente di Charing Cross, e per chiudere poi nel 2008. Quindi in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo registrazioni effettuate al Marquis, data anche la chiusura del 2008 e dato anche l'enorme quantità di cose che sono state registrate in questo locale. Andremo pedissequamente in ordine cronologico, però vi avviso che sarà una sorta di archeologia musicale, perché il brano più nuovo che ho in scaletta è del 1979. Cominciamo subito da una grande band che pubblicò il proprio primo album, si chiamava Five Live Yardbirds, sono proprio loro. Il primo album è registrato dal vivo proprio al Marquis, erano 5 pezzi, e gli Yardbirds sono naturalmente famosi per la storia dei 3 chitarristi che sono succeduti, Eric Clapton, Jeff Beck e naturalmente anche Jimmy Page, che poi li trasformò piano piano in Led Zeppelin, ma questa è tutta un'altra storia. Sono ancora attivi, ma è solamente Jim McCartney, il membro originale, che oramai direi che comincia ad avere una certa età. Comunque la registrazione di questo Five Live Yardbirds è del dicembre, del marzo del 1964. Sono tutte covers. Questa è una cover di un brano dei Lally Brothers che si chiama Respectable. Loro sono i Yardbirds. This one now to end the set. She's so respectable. Oh. I'm Thank you very much. Thank you. Like you are the only woman, yeah. Till I give you everything I can possibly give. But of all the love I give, it's never enough. I'm gonna show you, baby, a man has got to be tough. Un'altra cover, perché a quel tempo le giovani bands inglesi facevano molte molte covers. Questo è un pezzo che è stato reso famoso e più conosciuto nella versione di Janis Joplin, si chiama Piece of My Heart. L'esecuzione invece è quella di una band che all'epoca fece veramente faville, ma poi è caduta nel dimenticatoio e adesso è veramente, direi, sconosciuta. Comunque si chiamavano Move, venivano da Birmingham e sono stati attivi dal 1965 al 1972. Questo che ci siamo ascoltati è la ristampa di un extended play live che era l'unica cosa dal vivo uscita durante la vita della band. Poi ci fu un album, è stato il film che è uscito postumo, ma questa è un'altra storia. questo extended play si chiama Something Else from the Move, come vi dicevo è stato pubblicato nel 1968 e poi nel 1999 invece è stato ripubblicato con quattro canzoni aggiunte, una è questa che ci siamo ascoltati, appunto questa Piece of My Heart da parte dei Move. Somebody's been with us right from the beginning, and as I said, this possibly is the best band he's ever had. We'd like you to give a real marquee welcome to the great John Mayall. Very nice to be back. I think it's about the only London gig apart from tomorrow night. I better not advertise that. Let's tell you, Johnny Armand on tenor, alto and flute, and then John Mark on guitar and Steve Thompson on bass. Thank you. Il padrino del blues britannico, del British Blues, insieme ad Alexis Corner. Lui invece è John Mayall, grandissimo personaggio, attivo un sacco di anni e continuamente attivo fino alla sua morte, che è stata un paio di anni fa. E nei suoi Blues Breakers sono passati tutti i musicisti più importanti britannici e non solo. E ha fatto un sacco di album dal vivo, naturalmente. E lui penso abbia suonato al Marquee decine e decine di volte. E questa è una registrazione del 1969, del giugno del 1969, ma è uscito in tempi più recenti, ed è il soundtrack di un film che si chiama The Turning Point Movie, che racchiude le gesta, diciamo, di questa band che lui ha assemblato, band acustica senza batteria, che aveva due personaggi incredibili al proprio interno, John Mark e Mark Almond, per meglio dire, che poi se ne sarebbero andati, avrebbero fondato una band in proprio con un paio di album che consiglio indefessamente a tutti. E il brano che ci siamo ascoltati, appunto, è questo live, tratto da questo album che si chiama Live at the Marquee 1969, ed è il primo brano dell'album. Avete sentito anche la presentazione, si chiama I Can't Sleep This Night. Potevano mancare i King Crimson? Assolutamente no, anche loro hanno suonato al Marquee tantissime volte. Quello che ci andiamo ad ascoltare è il numero uno della serie DGM Collectors Club, che è una serie che è gestita dallo stesso Robert Fripp insieme a David Singleton. Il primo numero della serie si chiama proprio Live at the Marquee 1969, anche questo registrato nel 69, ma praticamente il mese dopo, anzi qualche giorno dopo, il 6 luglio del 1969, è stato il concerto praticamente un paio di giorni dopo che il debutto che fecero i King Crimson, nel concerto organizzato dai Rolling Stones in memoria di Brian Jones in Hyde Park. Quindi scusate se è poco. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, credo, spero non abbia bisogno di presentazioni, è un super classico della band di Robert Fripp da sempre, anche perché qui siamo nel 1969 ed è praticamente uscito, forse deve ancora uscire il primo album. Comunque il brano si chiama I Talk to the Wind. We write ourselves, and the words for this were written by a friend of ours called Pete Sinfield, who lives down that hole down there. Nobody ever seen him, actually. Pity. He's a lovely guy, that's a pity. Can you do the nose? It's a beautiful number, it's called Talk to the Wind. I've been there and I've looking inside, what do I see? Much confusion, disillusion, all around me. Eddie Harding suonava le tastiere, Pete York la batteria nello Spencer Davis Group. Poi nel 1969 decisero di andarsene e fondare una band che si chiamava semplicemente come loro, Harding and York, che contrariamente a quanto molti credono non era solamente un duo, ma avete sentito anche in questo caso c'era la chitarra. E loro non si sono mai sciolti ufficialmente, però ogni tanto si ritrovavano per suonare. Live at the Marquee è stato pubblicato postumo, diciamo così, dopo il loro periodo migliore, ed è stato registrato il 15 giugno del 1971 al Marquee. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Find Myself Again, è un brano abbastanza anomalo nella loro produzione, l'ho fatto apposta perché solitamente appunto lo strumento trainante è l'organo di Eddie Harding, ma comunque è sempre un gran bel pezzo. Find Myself Again, Harding and York. Scavalliamo gli anni 70, arriviamo agli anni 70 con l'unica cosa che ci ascolteremo di quella decade adesso, poi ci saranno sicuramente altre possibili trasmissioni in cui andremo più avanti nel tempo. Comunque la Climax Blues Band, che originariamente si chiamava Climax Chicago Blues Band, veniva da Stafford, è stata attiva dal 1968 all'84. Poi sono sciolti per un paio d'anni, ma sono tornati e sono attivi tuttora, anche se non ci sono membri originali. E l'album che ci andiamo ad ascoltare è un triplo live, che racchiude registrazioni effettuate in diverse epoche, nel 1973, 74, 76 e 79. Si chiama Live, Rare and Raw ed è, come dicevo, triplo, molto interessante, molto accattivante, da questa band che non ha avuto il successo, secondo me, che avrebbe meritato, ma che all'epoca era abbastanza famosa, diciamo così. Il brano che ho scelto per voi e che conclude questa prima parte della trasmissione dedicata al Marquee di Londra, questo locale, non esito a dirlo, mitico, che ha fatto veramente la storia della musica rock. Dicevo, il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è un medley fra tre brani, Banana Rapple, Shake Your Love e That's All. Loro si chiamano Climax Blues Band. Come and I wanna go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot banana. Da da da da da da. This now is a diversion. Daylight come and I wanna go home. Get like a man in one go home. Meanwhile, ready now. What? A quick ripple for that one. Quick ripple for Derek for doing that one. Yeah! That was live. That was really live. Shake it till the morning comes. super bright. Break a load tonight. Wanna break a load tonight. Wanna jump a shout, wanna stretch a bike. Wanna shake a load tonight. Wanna shake a load tonight. Wanna shake a load tonight. Gonna jump a shot, gonna stretch your bike, gonna shake a load tonight. Yeah. Mercoledì 1 aprile 2026, seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che si è aperta come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, l'ultimo album uscito in ordine di tempo dei Camel, che però è stato registrato nel 1974, si chiama Earth Rise, e un doppio CD che veramente rappresenta appieno quella che era la band in quegli anni. Erano nel pieno della loro forza, diciamo così, anche se non è il termine più adatto. Una grande band progressive che però aveva questo difetto, quello che ci siamo ascoltati adesso, a volte erano un po' troppo melensi. Comunque erano meritevoli di più successo, perché erano veramente all'altezza di Yes, Genesis, eccetera eccetera eccetera, però rimasero sempre rimasero e sono tuttora considerati come una seconda fila rispetto a quelli che vi ho appena detto. Ripeto, Earth Rise si chiama l'album, è stato registrato al Marquis di Londra il 30 ottobre del 1974 da questa band che è tuttora attiva, anche se sporadicamente. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, lo so, sono tedioso, ancora una volta tantissime cose registrate in questo primo aprile, e il brano e il criterio di scelta, come sempre però, è un brano per ogni decade. E prima vi ho parlato dei Move, band degli anni 60 che è caduta nel dimenticatoio, altrettanto potrei dire per i Kinks, grande band con una serie di successi clamorosi che però praticamente è ignorata dal pubblico attuale. Loro sono stati attivi dal 1962 al 1997, come dicevano, hanno scritto un sacco di classici, poi hanno fatto un po' troppo cabaret, ecco, diciamo così. I loro brani erano molto ironici, molto, molto parlati, e hanno perso un bel po' di pubblico. Qui siamo ancora nel momento di grazia, nel loro più forte momento, siamo nel 1967. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live at Kelvin Hall. Kelvin Hall è un locale che era a Glasgow, in Scozia, che appunto vide in concerto in diverse occasioni Kinks. Questa occasione è quella del 1 aprile 1967. Come quasi tutti gli album live di quel periodo, vedi Rolling Stones, ci sono un po' troppo i urla, perché il pubblico era enfatizzato un po' troppo rispetto alla musica. La registrazione, diciamo che è quella che è, ma è un valore storico inestimabile, come dicono quelli che ne sanno a pacchi. Il brano, un classico che non dico neanche di cosa si tratta, Kinks, era il 1 aprile 1967. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me. uno dei riff di chitarra più famosi in assoluto, se non il più famoso, intrasentito bisognerebbe dire, in questo live che, come vi dicevo, ha una registrazione sul pessimo andante, ma ha un valore storico inestimabile, nel senso che è il primo album live dei Kinks. 1 aprile 1967 l'album si chiama Live at Kelvin Hall, registrato a Glasgow, Scozia, UK. You Really Got Me, il pezzo che ci siamo ascoltati naturalmente. Sono stati una coppia nella musica e anche nella vita dal 1960 al 1976 e non sono stati grandi tempi, bei tempi per Tina Turner, perché suo marito era un tipo abbastanza manesco, però insieme musicalmente erano una coppia assolutamente incredibile. Hanno avuto un sacco di successo con una serie di singoli notevoli, tutti orientati naturalmente al rhythm and blues, e soprattutto con gli show incendiari che facevano soprattutto Tina Turner con le Cats, molto anche basato su un sottofondo, non tanto sottofondo, diciamo su doppi sensi sessuali, ecco la parola forse è meglio questa. Hanno fatto 8 album dal vivo, alcuni sono stati ripubblicati però con titoli diversi, quindi se nel caso fosse intenzionati state molto attenti a quello che comprate, perché anche spesso anche le copertine sono diverse. Questo è un doppio album live registrato alla Carnegie Hall di New York City, si chiama What You Hear Is What You Get, quello che sentite è quello che avete, perché poi Tina Turner a un certo punto fa dei rumori, diciamo così, con la bocca, e qui si va di sesso in tutti i sensi, però sempre naturalmente sul palco ben vestiti senza problemi, solo un'allusione, diciamo una pesante allusione. Il tutto è stato registrato il 1 di aprile del 1971, ripeto, Carnegie Hall di New York City, un classico del loro repertorio, anche se in realtà, ma tutti lo sapete, è un classico dei Creedence Clearwater Revival uscito dalla penna di John Fogerty, è questo che ci andiamo ad ascoltare, si chiama Proud Mary, anche Tina Turner, 1971. Right about now, I think you might like to hear something from us. Nice. Do a good job. Easy. Down in the city. What now? Working for the mayor. I'd like to do that for you. Every night and day. But there's just one thing. But I never, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice. Big wheel, big wheel. And rough. Big wheel, big wheel, big wheel. And now keep on turning. We're gonna take the beginning of this song and we're gonna do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. This is the way we do. Proud Mary. And we rolling. Rolling. Rolling on a river. One more time. See me rolling. Rolling. Rolling. Rolling on a river. Listen. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep. And I was worried by the way that things might have been. It will keep on turning. Library keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling low. Rolling on the river. Rolling on the river. Big wheel keep on turning, and the pride. rolling love. Rolling on the river. Rolling on the river. Two, three. Worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning. Proud mirror keep on burning. Rolling. Keep on turning, turning. Round mirror, keep on burning, burning. And we're rolling, rolling, rolling on the river. Say that we're rolling, rolling, rolling on the river. If you come down to the river, I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry if you got no money, cause the people on the river are happy to give. Big wheel keep on turning, turning. Proud Mary keep on burning, burning. And rolling, and rolling, yeah, yeah. Rolling on the river. You better go. Said we're rolling. One more time. Rolling. Yeah. Rolling. All right. Rolling on the river. Uh-huh. Rolling. All right. Rolling. Rolling on the river. I tell you, but if you come down to the river, I bet you're gonna find some people. people who live. You don't have to worry if you got no money, cause the people on the river are happy to give. Big wheel keep on turning, and the brown river keep on burning. Infinita, infinita questa versione di Proud Mary dei Creedence by Ike e Tina Turner. Era il 1 aprile 1971, live a Carnegie Hall, New York City. Okay. Molto velocemente, i Eurythmics le conoscete tutti, per cui non ne parlo assolutamente. È uscito un live a tempo debito, si chiama 1983-1989, sono due CD normalmente, c'è un'edizione tripla con il terzo CD acustico registrato a Roma, come del resto altre canzoni che sono inserite in questo album che è registrato in diverse occasioni. Somebody Told Me è stato registrato a Buffalo, stato di New York, il 1 aprile del 1984. Loro sono Eurythmics.

Una delle punte di diamante del cosiddetto Bristol Sound, loro sono Portishead, come dice il nome stesso, cioè come vi ho detto il Bristol Sound, quindi loro provengono da Bristol, UK, sono attivi dal 1991 con diversi periodi di riposo, diciamo così. Infatti dal 1991 hanno fatto solamente 3 album in studio più questo live che si chiama Roseland New York City Live. È stato registrato principalmente nel locale di New York City, appunto a Roseland, nel luglio del 1997, con un paio di canzoni aggiunte che erano state registrate in altre città. La curiosità è che nel 2024 è stato ripubblicato e le 2 canzoni che erano state registrate in altre città sono state sostituite da 2 canzoni da quel concerto che prima non c'erano. È una cosa un po' particolare, una ristampa un po' particolare, ma questo è quello che è successo. Infatti quello che ci andiamo ad ascoltare è uno dei 2 brani nella versione originale che non erano registrati a Roseland, bensì al Warfield di San Francisco, e il 1° aprile del 1998. Il brano si chiama Sour Times, come vi dicevo lo trovate in tutte e 2 le versioni, quella originale e quella la ristampa del 2024, ma sono 2 versioni diverse. Questa è quella registrata a San Francisco nel 1998, il 1° aprile, ed era appunto Sour Times. Vengono da Boston invece, nel senso che si sono conosciuti al Berklee College of Music, che è una istituzione musicale americana di fama mondiale, dove i musicisti vanno a perfezionare la loro tecnica, e in questa occasione nel 1985 si sono formati Dream Theater, leader di quell'altra branchia così che della musica che si chiama metal prog. Come al solito le definizioni lasciano un po' il tempo che trovano. Loro hanno fatto un sacco di album live, il primo fra parentesi è stato registrato al Marquee di Londra, della quale abbiamo parlato nella prima parte. In più hanno una bootleg series ufficiale che è densa di grandi registrazioni, ne è uscito uno anche recentemente e fra un po' arriverà nei miei scaffali. Il triplo CD che si chiama Score, invece, quello che ci interessa, è stato registrato durante il tour del 20° anniversario della band nel 2006. Sono 3 dischi, come vi dicevo, 3 CD, scusate. Il secondo e il terzo sono stati registrati con l'Octavarium Orchestra e sono tutti brani molto lunghi, per cui eliminiamo il secondo e il terzo CD. Rimaniamo nel primo con un altro brano che non è cortissimo, ma dura solamente, fra virgolette, 7 minuti. È stato registrato, come tutto il resto, alla Radio City Music Hall di New York City il 1° aprile del 2006. Il brano si chiama Under a Glass Moon. Loro sono Dream Theater. We'll be right back. Dream Theater, quindi una band molto aggressiva, molto potente, molto molto famosa. Da Boston, come vi dicevo, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Under Glass Moon, Radio Music City Hall di New York City, 1 aprile 2006. Ancora una volta cambiamo radicalmente musica e andiamo con un'icona del folk irlandese, si chiama Christy Moore. Lui è nato a Newbridge, County Kildare, in Irlanda, ed è attivo dal 1969. Ha fondato primi Planxty e poi Moving Earth, scusate se è poco. È molto coinvolto politicamente, tanto che è stato arrestato un paio di volte per indagare, come hanno detto, sulle sue liriche. Ha fatto una serie di album dal vivo, una carriera lunghissima naturalmente. Questo si chiama On the Road, sono due CD registrati in diverse occasioni. Il primo aprile del 2017 era Lyrath, al Lyrath Theatre di Kilkenny in Irlanda naturalmente. Prima di andare con questo pezzo però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì su Radio Città Fujiko naturalmente, sia in FM stereofonica che sul web che sul DAB. Il brano che vi propongo da Christy Moore è un classico della tradizione musicale folk irlandese, si chiama Ruggle Tuple Gypsy. Ciao a tutti da Nevio. And there were three old gypsies at Old Hall Door. They came brave and boldly, and there's one sang high and the other sang low, and the lady sang the raggle taggle gypsy all. It was upstairs, downstairs the lady went, but on a suit of leather. Oh, it was the cry all around her door. She's away with the raggle taggle gypsy, oh. She gave to them a glass of wine, she gave to them some brandy, and the fine gold ring that the lady wore. Oh, she gave it to the raggle taggle gypsy, oh. It was late that night, the Lord came in, inquiring for his lady. The servant girl's reply to him was, she's away with the raggle taggle gypsy, oh. Oh, the saddle for me, me milk white steed, me big horse is not speedy. I will ride and I'll seek my bride, she's away with the raggle taggle gypsy, oh. Oh, then he rode east and he rode west, and he rode north and south also. When he came to the wide open field, there he spied his lady, oh. Why do you leave your house and your land? Why do you leave your money, why do you leave your only wedded lord? All for the raggle taggle gypsy, oh. And it was there last night you'd a goose feather bed with blankets thrown so calmly. But tonight you lie in a wide open field in the arms of your raggle taggle gypsy, oh. Yerra, what do I care for a goose feather bed? What do I care for blankets? Tonight I lie in a wide open field in the arms of my raggle taggle gypsy, oh.